12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Bentrovati, io sono Giovanna e vi do il benvenuto a 12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro. Nella puntata di oggi, come vi avevo anticipato la scorsa settimana, andremo alla scoperta di un'importante opportunità per chi ha intenzione di avviare un'attività in proprio, ovvero l'Erasmus per giovani imprenditori. Ne parleremo insieme a Daniela Nardello di Eurosportello e insieme a Dario Fasolo, giovane imprenditore che ha partecipato al programma. L'Erasmus per giovani imprenditori è il programma di scambio per gli imprenditori europei, finanziato dalla Commissione europea, destinato a promuovere ed incrementare l'imprenditorialità e l'internazionalizzazione attraverso un periodo di scambio in altri paesi, appunto, dell'Unione europea. Possono partecipare sia nuovi imprenditori che imprenditori affermati e le imprese possono appartenere a qualsiasi settore, purché siano piccole e medie imprese. E solitamente il periodo di scambio va da 1 a 6 mesi. Non ci sono limiti d'età a partire dai 18 anni ed è consigliato conoscere la lingua del paese dove si effettuerà lo scambio oppure avere una buona conoscenza dell'inglese. Il programma finanzia una quota mensile che contribuisce al vitto e alloggio del partecipante e la quota può variare da paese a paese e può andare da un minimo circa di 560 euro ad un massimo di 1100 euro. 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. Dopo aver dato una panoramica generale di questa possibilità, cerchiamo di scoprire meglio come funziona, dando il benvenuto alla nostra ospite, Daniela Nardello di Eurosportello. Daniela, benvenuta a 12 minuti. Grazie, buongiorno. Daniela, per prima cosa, brevemente, Eurosportello cos'è e di che cosa si occupa? Allora, Eurosportello del Veneto è il Dipartimento di Politiche Comunitarie di Unioncamere del Veneto. Si occupa quindi principalmente di progetti europei indirizzati al supporto della piccola e media impresa del Veneto. Ecco, proprio a proposito di questo, l'Erasmus per giovani imprenditori, quindi in che quadro si inserisce e a chi si rivolge? Ok, il programma Erasmus per giovani imprenditori è uno dei progetti che Eurosportello sta portando avanti sin dal 2009 ed è un programma di scambio che ha come fine quello di promuovere l'imprenditorialità e la competitività delle nostre piccole e medie imprese, incoraggiando la mobilità dei giovani imprenditori. Ecco, e quindi gli imprenditori, diciamo, che possono partecipare, cioè chi sono? Allora, è rivolto da un lato ai nuovi imprenditori, cioè quelli che hanno un'impresa da meno di 3 anni o che stanno per aprire un'impresa e loro beneficiano di una borsa per poter viaggiare e ad andare all'estero a passare da 1 a 6 mesi. Dall'altro è rivolto alle imprese già avviate, quindi da più di 3 anni, che si candidano come imprenditori ospitanti e quindi danno la possibilità dei giovani europei di venire presso di loro ad imparare, a scambiare contatti e possibilmente a fare business. Daniela, per partecipare a questo programma, quali sono le procedure, a chi bisogna esattamente rivolgersi? Per partecipare al programma Erasmus per giovani imprenditori è molto semplice, è sufficiente fare una iscrizione online nel sito ufficiale del programma, caricare tutti i documenti richiesti, principalmente il curriculum e il business plan, e selezionare noi, cioè Eurosportello del Veneto, come organizzazione intermediaria. Ok, quindi insomma molto semplice, si va sul sito, appunto si caricano queste cose e poi ci si può rivolgere a voi. Daniela, un'ultima domanda, magari ci racconti qualche esperienza di giovane imprenditore che appunto ha partecipato all'Erasmus per giovani imprenditori? Certo, una giovane imprenditrice che ha finito a dicembre di quest'anno nel settore vinicolo, cioè più che altro della promozione delle aziende vinicole nostrane, è andata per 3 mesi in Danimarca presso un tour operator appunto danese che l'ha ospitata per appunto questo lungo periodo e assieme hanno fatto business principalmente, quindi questa nuova imprenditrice ha avuto una serie di contatti molto utili per portare avanti il suo lavoro qui in Italia e hanno veramente stabilito una relazione di successo che è stata anche pubblicata nel sito della Commissione europea e quindi ha avuto anche un ritorno in termini di pubblicità. Ecco, quindi insomma mi pare di capire che l'esperienza proprio permetta poi di crearsi degli agganci, dei contatti che poi a livello proprio concreto, l'idea imprenditoriale che appunto un giovane ha e che vuole insomma sviluppare, poi insomma possono tornare utili. Esatto, non è solo uno scambio formativo, cioè andare presso un imprenditore ospitante per imparare, ma è anche uno scambio che permette poi di crescere a livello proprio di business e di visibilità della propria impresa. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qui con noi e per le informazioni che ci hai dato. Grazie a voi. E ora ci fermiamo per un breve intervallo musicale, poi ci ritroviamo qui con Dario che ci racconterà la sua esperienza. L'influenza fa cambiare le mie fantasie, le modifica e poi le rimodella d'arte. Non sono stato mai capace di decidere cosa meglio sia e cosa definire male. Mi servirebbe sapere se l'altra notte quando hai detto che sei stata tanto bene eri sincero oppure hai avuto solamente una parentesi di un'ora pure scarsa. E non mi va di privarmi della calma e farmi male, farmi male, farmi male, tanto male, farmi male, farmi male, farmi male, tanto male. Servirebbe sapere, ma state già per aggirare tutte quante le barriere, o quale sia la strada giusta per giustificare il male da alleviare il dispiacere. Mi servirebbe saperlo quanto prima e farmi male, farmi male, farmi male. Piacerebbe sapere le contromosse utilizzate per lenire le mie pene e sopperire finalmente alla tua luce intermittenza per dotarmi di pazienza. In fondo mi è piaciuto a me n'ha dito, allora fammi male, fammi male, fammi male, tanto male, fammi male, fammi male, fammi male, tanto male. Allora "12 minuti, il lavoro al tempo del non lavoro". Bentornati a 12 minuti, stiamo parlando di Erasmus per giovani imprenditori e nella prima parte della puntata Daniela Nardello di Eurosportello ci ha spiegato cos'è e come funziona esattamente il programma. Ora ce lo faremo raccontare da chi ha partecipato in prima persona e quindi diamo subito il benvenuto a Dario Fasolo. Dario, benvenuto a 12 minuti. Ciao a tutti. Dario, per prima cosa ci racconti chi sei? Sono Dario Fasolo, ho 32 anni, sono nato a Padova, sono laureato in giurisprudenza, ho proseguito facendo master di secondo livello presso l'Università di Vienna in European International Business Law. I miei interessi essenzialmente sono sempre stati in avvocatura e in generale business consulting e sono cofondatore assieme a Marco Flaboria di PMI Nordest, che è un portale per le PMI del Nord-Est, insomma. Ecco Dario, quello che facciamo. Sì. No, volevo in questo momento a livello lavorativo appunto che cosa fai nella vita? Ok, nella vita essenzialmente ci occupiamo di collaborazione appunto con le piccole e medie imprese e gli imprenditori ed essenzialmente business consulting per l'internazionalizzazione dei rami d'azienda, analisi di mercato per l'ingresso di mercati esteri, ricerca bandi e fondi europei e in generale anche business coaching per quanto concerne il modo di pensare a livello imprenditoriale e business marketing. questo diciamo è l'overview di quello che stiamo facendo. Dario, a proposito appunto dell'esperienza dell'Erasmus per giovani imprenditori alla quale tu hai partecipato, perché hai deciso di fare questa esperienza e quali erano le tue aspettative? Boh, essenzialmente l'aspettativa era quella di imparare da un'imprenditrice che fosse già nel ramo dell'internazionalizzazione e essenzialmente nella gestione dei bandi di finanziamento. E ho trovato in Judita Juassova, che era iscritta già come imprenditrice nell'Erasmus per giovani imprenditori, questa figura. E in più una possibilità, nel caso specifico, di avere un contatto sia con lei sia con gli imprenditori collegati alla Camera di Commercio Italo-Slovacca, dove poi mi sono recato, insomma. Ecco, quindi questo è il posto appunto dove sei stato, e precisamente lì che cosa hai fatto? Allora, come ti dicevo, appunto, Slovacchia è localizzato precisamente a Bratislava, nella capitale. Quello di cui mi sono occupato essenzialmente è la collaborazione nella gestione di nuovi progetti di internazionalizzazione, lì con l'imprenditrice da cui mi sono recato, appunto per l'accesso ai fondi europei, e appunto abbiamo dato un occhio assieme anche alla gestione di vecchi progetti che lei aveva già gestito, giusto per avere un overview totale. Essenzialmente anche gestione di relazioni con imprenditori esteri ed investitori, perché essendo in una camera di commercio italo-slovacca ho avuto accesso a molti contatti, e in più ho avuto anche la possibilità di vedere l'Italia da una prospettiva estera, diciamo. Certo che insomma, stando poi appunto qui nel paese, magari non è sempre così scontato. Esatto. Dario, che cosa ti sei portato a casa da questa esperienza? Ma essenzialmente mi è decisamente servita come esperienza già a partire dalla redazione del business plan, perché comunque ha aiutato molto, e dal lato professionale mi sono portato a casa contatti, collaborazioni, esperienza di sicuro, e in generale nuove prospettive e collaborazioni anche in progetti che sono rivelati esterni al business plan iniziale. Quindi ho avuto anche un'evoluzione del mio business plan e anche la nascita di ulteriori progetti. Ecco, questi sicuramente sono gli aspetti positivi. Ci sono state anche delle difficoltà? Ma sinceramente difficoltà nessuna, perché la comunicazione è stata ottima con l'Eurosportello del Veneto e con l'imprenditrice, sono stato accolto in maniera ottimale, quindi no, nessuna difficoltà. Ecco Dario, un'ultima domanda. Ad oggi consiglieresti ad un altro giovane di partecipare a questo tipo di esperienza, e perché? Ma insomma, anche se un po' me l'hai già detto. Beh, voglio aggiungere solo una cosa: decisamente consiglierei di partecipare 100%, e aggiungerei anche il particolare di a chi decide di partecipare di essere preciso e serio nella proposta che fa, di redare un business plan che dopo sappia che gli sarà utile anche in futuro, e di prendere il massimo possibile da questa esperienza, sia per probabilmente ampliare la mission della loro attività o per chiarificarla meglio. E in generale, come ultimo consiglio, quello di prendere iniziativa una volta che la persona è all'estero, perché comunque c'è necessità di un ruolo attivo, non si va a lavorare come dipendenti, ma come ruolo di imprenditore c'è la necessità di fare azione, comunque farsi valere. E l'ultima cosa, magari prima di iniziare la procedura o quando si è iniziata la procedura, un contatto preventivo con l'imprenditore, o in qualche modo qualche scambio di email, una telefonata Skype o quello che è, per riuscire a vedere se già c'è un feeling con l'imprenditore o imprenditrice. Certo, perché poi insomma si va a passare un periodo, ecco, non poi brevissimo, appunto a stretto contatto, e quindi è sicuramente un aspetto importante anche questo. Dario, io ti ringrazio per essere stato qui con noi, e ovviamente in bocca al lupo per il tuo lavoro e per la tua impresa. Grazie mille, ciao a tutti. Dario, per prima cosa ci racconti chi sei? 12 minuti a cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia. Chi fosse interessato all'Erasmus per giovani imprenditori può quindi rivolgersi all'Eurosportello della Camera di Commercio presentando un CV e un business plan. Se l'idea piace, può essere visibile a tutte le imprese in Europa, e le imprese interessate appunto poi contatteranno il candidato. Per info potete scrivere a europa2@eurosportelloveneto.it oppure telefonare allo 041 0999 411. Inoltre potete andare al sito www.eurosportelloveneto.it. www.erasmus-entrepreneurs.eu. Eurosportello fornirà sostegno e coordinamento ai nuovi imprenditori italiani durante il periodo di permanenza all'estero, ma anche agli imprenditori ospitanti italiani che desiderino ospitare appunto presso la propria azienda un nuovo imprenditore di un altro paese europeo. Per chi volesse avere la possibilità di parlare con giovani imprenditori che hanno partecipato al programma e avere tutte le informazioni, vi segnalo che il 14 marzo 2013 all'Informa Giovani di Mestre Venezia si terrà un incontro proprio sull'Erasmus per giovani imprenditori, a cui parteciperanno sia appunto persone che vi hanno partecipato e che adesso hanno avviato le loro imprese e lavorano anche all'estero, sia Eurosportello che risponderà a tutte le domande che vorrete porre. Questo incontro si inserisce in un ciclo di appuntamenti che avrà inizio il 7 marzo, in cui si parlerà di servizio volontario europeo, per finire il 18 aprile. Nei vari incontri ci sarà anche la possibilità di incontrare aziende del territorio che operano in diversi settori, con la possibilità di farsi conoscere e di candidarsi per posizioni lavorative. Per informazioni potete consultare il sito veneziagiovane.info o scrivere a informagiovani@comune.venezia.it. E per oggi è tutto, ci sentiamo la prossima settimana, bye bye! 12 minuti. Il lavoro al tempo del non lavoro. A cura dell'Informa Giovani di Mestre Venezia.